qualcuno qua sul canale 10? Sì, ci sono io, buonasera. Vabbè, tata lì. Preparati, alzare i tuoni. Oh, yeah. Tuoni ci sono. Eh sì, l'alghero sta arrivando a un temporale. Anche abbastanza interessante. Aspetta, ma... KK, qua sta già più vicino nella zona alta. Oh, signor. Beh, è andata a pescare, tutto bene è andato, sì. Cosa, Cla? Ho detto, sei andata a pescare, tutto bene è andato. E a un certo punto si è bloccato perché si è messo il vento e non abbiamo preso nulla. Io ho sbigliato quattro saraghi e due sorelle, così. Ah, così è. Amico tuo, due fratelli? No, oh, amici miei, sono di queste parti. Gaffa. Addirittura una l'ho presa un sarago e io un sarago l'ho preso con quella cannetta a fondo e le altre tutte a galleggiante. Adesso me le ho messe tutte e due a galleggiante. E quindi praticamente vai solo a galleggiante vai adesso là. Ehi gatto, è divertente, ti diverti con pescando così. Ehi bello, io andavo sempre a galleggiante, a me piace a galleggiante, capito? Quello classico però normale, a galleggiante così. Poi, ma hai intendi? Qua ancora non si sente nulla qua. Qua già si sente, sì. In altura già ci sono i tuoni e i fulmini, capito? Fra un po' e sta condotto KK. Mi sa anch'io, eh. È arrivato il temporale, non pioggia normale, temporale, quindi tuoni, fulmini, un po' di raffiche di vento. È di passaggio, però dura stasera e anche domani mattina. E per quello già gli ho detto a mia moglie di portare il cane in fretta, o sai chi si infondia la situazione, i voci. Infatti, anch'io ho lo stesso problema, però io a Frippo non posso portare molto presto, capito? Perché sennò poi è un casino, cosa faccio? Cos'è l'arbusto? A ridere di notte da buio. Lui esce verso le 7, 7 e mezza, verso quell'ora, prima no. Ma io lo porto a qualsiasi ora e te tranquillo. Infatti ho detto, buio sarà là, così ti mi ripareggi. Perché se dopo fa tempo brutto è l'onfio la situazione. Aspetta, ma... Ma non intende i droni, ma non è solo io che ho visto i droni. Occhio mio, occhio! Sì, qua. Mi ha mandato un video Valerio sta diluviando l'alghero. Su passata l'acqua, cazzo. Minchia. Ciao Claudio, io stacco tutto, ero tratto per un saluto, ma vedo che si mette male. Ciao. No, ancora siamo, deve arrivare l'alghero. Ah sì, questa è acqua, mi pesce Maria Garaga. Claudio. Oh, yeah. Già sto scendendo, sono entrato per un saluto. Ho visto tu nell'ampio, stacco tutto, dai. Non mi fido, ciao, ciao a tutti. Permettimi di morire. Solo dalla parte nostra ci sono i tuoni nell'ampio. Cazzo, Natalino ha detto che non c'è niente della sua. Cazzo, mi ha mandato un video a Valerio, anche lo sta diluviando. Ecco, mi è piaciuta la strada, mi sono affacciato a vedere. Ma i tuoni non li hai sentiti ancora? No, nulla. Cazzo, l'altra notte sì che l'ho sentito, ma vanno. Non so. Adesso arriva qua però la perturbazione. Lo so che arriva qua, infatti gli ho detto che porta il cane in fretta, che sta per fare temporale adesso. Tu non hai visto il fulmine? Ciao ragà, che sto staccando tutto, ciao ciao. Minchia, posami, boom. Ehi, anch'io stacco tutto, va, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao a tutti, ciao. Oh yeah. Alle benegoro. già la valente. E adesso me l'hai mandata qua, qua. Adesso è qua, mi sta piovendo di rotto qua nella zona alta. È abbassata molto la temperatura e poi te lo sto dicendo, passata là. È di passaggio, eh. È di passaggio, però vedi, adesso è una rottura di palle, l'ho bagnato, ho dato una bella passata, Una bella passata. Adesso devo aspettare che non piova più perché devo portare il cane dopo. No, non le piace lui l'acqua. Già camminato che non ci sono pozzanghe. Lo porterò qua sotto il porticato perché dove è bagnato lui non cammina, capite? Deve essere che teme l'acqua. Allora, furbo è, ma raggiunti che... Ma veramente aveva dato acqua da stamattina, invece non ne ha fatto, perché era lavoro stamattina e acqua non ne ha fatto, anzi. Ti dirò che non c'era neanche freddo, ma era una giornata abbastanza tranquilla. L'acqua l'ha data nel primo pomeriggio di oggi e siamo già in perfetto orario, poi stanotte anche qualche straccio domani mattina. Ma cosa vuoi che sia questo? Se piove un'ora così a questi livelli, allora va bene, allora l'acqua corre, ma così no, non corre, anche perché le cunette, le cose sono tutte intasate dal periodo estivo, le manutenzioni sono state fatte ma non fatte, capito? Quindi deve correre, deve essere acqua bella forte, a camminare. No, le HF sono attaccate, ma c'ho il baracchino attaccato, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, non l'ho staccato. L'antenna del baracchino non l'ho staccata. Il commutatore elettronico, quello relè delle altre antenne, quello è a zero. Quello è staccato e le altre... Insomma, le HF sono tutte staccate, dai. Le V, le U, le HF, la parte amatoriale è tutta staccata. Qua c'ho il baracchino attaccato e lo lascio stare attaccato. E anche Tartalino c'era, anche lui deve essere che ha messo l'interruttore a zero. E vabbè, no, ma è di passaggio, non... Se continua, sì, ma stanotte è meglio staccare tutto, capito? Cioè non dare tensione, staccare proprio la tensione dagli alimentatori, le prese soprattutto, che è molto importante, e poi l'antenna, quella verticale. Io ho quello elettronico, quindi è a relè. Una volta che metto a zero qua da sotto, il relè sopra mi commuta a zero, non passa tensione, quindi è come che ci siano staccate le antenne. Capito? Va bene che va bene. E adesso vediamo, vale. Se continua lo porto più tardi, se no mi sono già pronto. Mi metto il kiwi, quello leggero, se sta più avvicinando lo porto lo stesso qua sotto. Cazzo, qua non c'è un filo di vento, Ha calmato anche il vento, c'era un po' di maestralotto, quindi sicuramente sta caricando di nuovo come hai detto tu. Stavo guardando anch'io, ma non vedo niente. Qua dalla parte del lato sala radio è chiaro. Non ci sono nuvole pesanti. Grigio ma è chiaro. Dall'altra parte del lato strada, quindi dalla tua zona verso Sassari, è un po' nero. E vabbè, se piove già ci vuole, dai. Già ci vuole. No, non è cosa da sottovalutare. La pioggia ci vuole, non ne ha fatto, siamo a secco. Fa bene un po' per tutto, per l'agricoltura e anche per noi che ne abbiamo necessità nei bacini, capito? Sì, basta che non ci sia tensione di alimentazione in ingresso, capito? Perché mi aveva fottuto così l'FT1000 di Millone, una bestia del radio. Me l'ha disintegrata, è entrato dentro la presa, siccome era 220 la radio, ho lasciato la presa attaccata e me l'ha disintegrata senza antenna attaccata, vale. Me l'ha disintegrata, distrutta, l'ho dovuta passare così com'era e prendere la radio nuova, avevo preso l'FT1200, è un casino, bisogna attaccare soprattutto la corrente in ingresso sull'alimentazione, sulle prese, chi ha radio 220 deve staccare la presa, perché altrimenti è un casino. È più importante quello che l'antenna, però l'antenna si stacca per precauzione, ma l'alimentazione sulla 220 è molto importante, perché se scende il fulmine e prende l'alimentazione diretta, sei buttito, sei fregato come ha fatto a me, non ci picchia, vabbè. Marco, ci sei Marco? Grazie a te, mi bocco, fa due baracchini da due citti, che per carità, attacca, che non c'è nessuno, non vedi che non c'è nessuno, sono tutti andati via, i fulmini, i tuoni, anche l'acqua è andata via, sono due baracchini lì, con un baracchino attaccato a paura, cosa devo dire io allora? Ho 10.000 euro di HF, per carità, beh, quelle le tengo staccate quando c'è temporale, ma in questi giorni che sto usando il baracchino me ne affutta assai, lo tengo attaccato e cosa le fa? Vuol dire c'è il telefono spento. No, guarda qua l'antenna è attaccata qua, e la manto fa diretta su quello, sui baracchini, non c'entra niente con l'altro impianto HF. O due cose separate, e l'alimentazione del 440 è staccata, tolto la spina da dietro, capito? Però il baracchino qua è alimentato, c'è la bidello C. Tatarino, però scarica le elettrostatiche, ci sono mio Valè, anche lì da te. Oh beh, rimane l'elettrostatica, con la pioggia rimane, capito? Rimane, però secondo me è in allontanamento, non in avvicinamento, non lo so, perché proprio si è visto che era di passaggio, stava camminandomi, capito? Infatti le nuvole si sono un po' aperte qua, perlomeno qua nella zona alta. Vabbè. Anch'io stavo ascoltando, qua non c'è nessuno, stavo ascoltando un po' in HF, ne avevo una sola accesa di HF, avevo l'ICOM, il 7502, si vedeva proprio dal grafico, perché c'era il dato di spettro, si vedeva dal grafico queste scariche, tutto che salivano. Ho detto, bah, temporale in arrivo, e dopo due minuti mi hai mandato il messaggio tu, che a Larghero stava diluviando. Vabbè, dammi 10 minuti, dai, che porto a Filippo, visto che non sta piovendo, dai, così poi posso magari rimanere in radio, ok? Dai, dai, già torno subito, a dopo. Eccomi qua, Vale. Piove, che c'è tarda. Anche qua mi ha portato il cane, io. Ma se non piove lo porto verso le 10, così prima di... capito? 10:30. Vabbè, però già piove. Occhio che piove, tira vento. Piove, tira vento. Se guardi sono raffiche intorno ai 25, 26, 28 km orari. Però non so se è maestrale, a Grecale, a Libeccio, non lo so, direzione nord, quindi siamo lì. Boh, qua sto leggendo 22, 23, ma vabbè, faccia quello che vuole, vale, meno puttassai, dentro casa già si sta poco bene. Io ho la finestra aperta, ce ne ho 22 all'interno, fuori 19, sì, però sono entrato adesso, sono in camicia e pantaloni lunghi e ciabatte, capito? Però come dico io, vedi? Io me ne accorgo dagli alberi, perché c'ho l'albero maestro davanti, è come la barca, no? Ho un pino altissimo, dove quando c'è maestrale quello si muove verso di me ed è fermo piatto, mentre gli altri che sono sul lato, quindi dalla parte del grecale, stanno iniziando a muoversi, quindi penso che entri un po' di grecale e poi gira maestrale come sempre. Cosa ne so? Non lo saccio. Non sto usando il 440, Vale. Non lo sto usando il 440. Sto usando il baracchino, quello diciamo base, dai, con l'MB più 5. Ehi, guarda, questo, ora, sono intorno ai 30 watt, dai, una cosa del genere, ma non ho un amplificatore, è così la radio. E al minimo della potenza sono 30 watt modulati. Ma la modulazione è buona, Vale, mi stavi dicendo, non mi interessa la potenza. Ti ripeto, è un paio di settimane sto usando questi baracchini, giusto per farli andare, poi li rimetterò dentro l'armadio. Però la modulazione è buona, no? Questi microfoni sono così, vale, cosa vuoi fare? Sono così, c'ho anche i toni chiusi, ma è giusto per, te ripeto, per fare due chiacchiere, va più che bene, più che bene. Addirittura il segnale è così alto, da 9 a 9.10 è l'Alghero. Ci picchia, già va bene sta radio. Va bene, va bene. Questo è il Cobra, il GTL 200, la versione da 200 watt, Valetti. Ha una bella bestiolina, c'ha 120 watt modulati. In modo laterale era 180 e via. Baracchino e baracchino, non c'è niente da fare. Vabbè, ti ricordo che il microfono è a metà, mica che è tutto sollevato e la potenza è a metà, intorno ai quasi 50 watt, dai, quasi 50 watt, però al picco sono 100, hai visto quando ho fischiato, dove è salito a 20, ho detto c'è un picco allucinante, mi sono spaventato quando l'ho agganciato, veramente, questa versione da 200, cioè praticamente l'amplificatore, fai un B150 sotto la pancia, qualcosa del genere, il dissipatore del B150, capito? È una bella bestiolina, canali, non so manco quante ne ha, mi pare parte da 25 a 30, c'ha tutto, c'ha direttamente inseriti anche gli alfa, capito? Fai 10 alfa, 11, 11 alfa, sino all'infinito, con frequenzimetro, molto bella. Ti mando la foto? Aspetta, ti mando la foto. Ti è arrivata, vale? Sì, è molto bello, completo, anche lo Smith, hai visto? Lo Smith ha tre versioni, Vattimetro e Rosmetro e Smitter. Sì, c'è lo sfondo verde come le scritte. KK, quando ti interessa dimmelo, capito? Tanto tra un po' va nuovamente in letargo questo. Già lo so come rispondevi così. No, qua non ce n'è bisogno di un amplificatore, tranquillo che non ce n'è bisogno. Provate in banda laterale 185 watt, più del 440. In AM c'è 80 watt di portante bianca, fissa, e 120 watt modulati alla massima della potenza, come hai visto dal fischio. Vabbè, questo è pochi ma buoni. Questo ti dico solo che costava 50 o 60 di più dell'S9, capito? 530-540 euro costata sta retta. Una bella bestiolina. Beh, vabbè, non ha niente a che fare con l'S9, io l'ho avuto l'S9, non ha niente a che fare, né come ricevitore né come trasmettitore. Va bene. Ehi, dai, per fare due chiacchiere già, ogni tanto bisogna attaccare anche i baracchini, vale? Sennò è un casino. Vabbè, te l'ho detto, non è per disprezzare l'S9, perché ti ripeto, io l'ho avuto una bellissima radio, però questa è un'altra macchina, molto più potente, molto più completa. Va molto bene. Adesso ti mando la foto della sala radio. Vabbè, ci manca qualcosa che ho tolto per fare spazio un po' ai baracchini. Va bene. Cosa stavo dicendo? Ma tu l'S9 non lo stai più usando? Da quando hai il 48 stai usando sempre quello? È il classico difetto dell'S9. No, quello che avevo venduto io era perfetto. Ancora non aveva fatto nessun difetto, assolutamente. Era perfettissimo. Questo è fatto diversamente, hai visto come il display? Si abbassa anche la tensione della luce del display se ti dà fastidio troppo alta, c'ha quattro posizioni, puoi tirare la trasmissione, ricezione, col capito? No, è molto bella, veramente molto bella questa radio. Va bene, ok. Valetti, minchia, sta caricando di nuovo, avevi ragione, un altro paio d'ore e butta di nuovo giù. Sì, quello lo so già, Marbilla, Medio Campidano, Ogliastra, tutte quelle zone piove, però era di passaggio anche a Sassari, quindi sicuramente o è già passata adesso e sta andando, sta camminando, oppure ritorna. torna indietro col cambio del vento, non lo so, vale. Ma è qua, te l'ho detto, sta caricando di brutto da greccare, però, da greccare all'invece, quindi secondo me sta tornando indietro, non lo so. Vale, forse anche sui ribiazzi, non è ancora il tempo suo, ma comunque se inizia da adesso a piovere, meglio ancora, ne abbiamo più risorse idriche. Hai visto una zona di Nuoro che quella grande nevicata ha portato acqua rispetto alla zona di Sassari, perché come si sono sciolte le montagne lì da Gennargento, tutta quella roba lì ha portato acqua nei bacini, capite? Almeno ammazza un po' di zanzare e di mosche. Cazzo, quest'anno le mosche che c'erano anche nella mia zona allucinante, non ti potevi sedere un attimino che ti si mangiavano le mosche. Meno male io a casa già c'ho le zanzariere, l'ho messo l'anno scorso, se no ce la prendevo buona. Ma al supermercato le mosche non sono ammesse. Non sono d'accordo, ci deve essere un sistema per non poterle far entrare. A casa purtroppo c'è la finestra aperta che non è la zanzariera, la mosca entra, però nei supermercati non è fattibile perché ci sono gli alimenti e quindi non va bene, assolutamente. Lì bisogna stare anche attenti, perché se arriva un controllo e ti trova mosche sulla parte alimentare, sono cacchi tuoi. Sì, è così. No, sto volando qua, Bippi, eccolo qua. Ma questo Bippi com'è? Mi pare non si intende manco, c'è un Bippi strano sto baracchino. Oh, infatti è bruttissimo, è costato un Bip, ma poi i Bip non servono a niente, Nem. Il Bip è fatto per la banda laterale, per far sì che il corrispondente si accorga che tu hai terminato di parlare, basta. Lascialo stare, no, sto dicendo il tuo, al mio, capito? Sto dicendo, si usa in banda laterale, è nato per il banda laterale. Vabbè. No, è pulito. Sì, pulitissimo, alla grande. Ehi, ma tanto a cosa servono? Non servono a niente, ti ho detto. Servono solo a fare a brutto e basta, capito? Quando uno c'ha la radio a posto, la lascia stare così com'è, già funziona. No, usali, Valè, usali anche in trasmissione, dammi retta. Usali anche in trasmissione, perché non è assolutamente necessario tenerlo acceso, quello che hai gemello del mio, per capirci. Non è necessario tenerlo acceso, bisogna farlo andare in trasmissione, perché deve avere tutto il sistema, con l'antenna attaccata, ricezione e trasmissione. Soprattutto far scaldare il finale, far sì che i condensatori lavorino e che tutta la parte del Mickey Gain con LC entrino tutti in funzione. C'è tutto un sistema particolare su quelle radio, vale. Bisogna farle andare, non basta tenerla accesa, non è assolutamente necessario, te lo dico per esperienza personale, perché io uso il K dal 1985, forse sono uno dei primi a Sassari che ha usato il K27 assieme a Marco 131, capito, che abbiamo comprato assieme il 430 nell'85, quindi ti posso garantire che dall'85 a oggi non ho mai smesso di usare quella radio 27, a parte adesso che sto usando un po' i baracchini, e la devi sempre usare, perché basta che tu la tieni 2-3 mesi accesa anche senza usarla, stai pur certo che ti crea problemi, prima o poi ti crea problemi la parte della trasmissione e non c'è il lock PTT. No, vabbè, lascia perdere quella grande digitale, quella è un'altra macchina, non ha niente a che fare, capito? Anch'io i digitali li tengo molto più spenti rispetto a quelli analogici, però sto parlando dell'analogico. L'analogico va sempre usato, perché può creare problemi con l'andare del tempo, capito? Mentre un digitale, soprattutto un SMD, è diverso il concetto, è molto diverso, vale? Capito? È molto diverso. Perciò te lo dico per esperienza, vissuta anche, non solo, è vissuta. perché io ne avevo, sono arrivato ad averne tutte e quattro, 140, 680, 430 e 440, adesso c'ho solo 430 e 440, e quindi non riuscivo mai ad alternarli, e c'era il 440 che era quasi sempre spento, diciamo più spento che acceso. Il giorno mi sono deciso a collegare quello diretto e farlo andare, dopo qualche settimana è iniziato a difettare, me l'ho dovuto mandare al centro assistenza, capito? L'ho dovuto mandare al centro assistenza perché mi stava creando problemi sia in ricezione che in trasmissione, vale. E anche perché qua in Sardegna hai poco da mandare, non ci sono centri di assistenza all'avanguardia, capito? Tutti dicono, ma non ce n'è. C'è un bravissimo radioamatore che lo fa per hobby, ma non lo fa per lavoro, ed è molto molto bravo, e non è fatto. E non lo fa perché, giustamente, è un suo hobby personale, preparatissimo, abbastanza esperto in queste radio, eccetera, eccetera. Però veri gruppi o centri di assistenza non ce n'è assolutamente, nel modo più assoluto, vale. E quindi sei costretto a mandarlo fuori, se lo tengono chissà quanto, e via. Ma il mio, ti ripeto, il 440 l'ho mandato su neanche tre anni fa, e ultimamente mi stava nuovamente difettando, e meno male si è ripreso da solo, altrimenti era un casino, capito? Proprio perché non lo stavo più accendendo, usavo sempre il 430, il 430, e quello sempre spento. Alla fine, uno e l'altro, bisogna mandarli dal medico, perché prima o poi ti lasciano a piedi, come è già successo, tutto qua. Quindi usalo e fallo andare quello. Adesso stiamo usando il 14, quant'è il coso? Quant'è il mio segnale adesso lì? E se fischio invece? Già è quello lì allora. Già va bene. Adesso ti metto la potenza bassa, aspetta. Guarda cosa succede. Allora, questa è la potenza bassa, vale. Guarda i picchi di modulazione. Già lo so, perché mi accorgo dal wattimetro, c'è la T230 collegato anche qua, capito? Che il rosmetro wattimetro commutatore accordato dall'antenna della Kenwood, quello di linea del 230, del 430, e quindi siccome c'è quello, allora ho solo attaccato il cavo di alimentazione di... solo l'antenna ho attaccato, dai, già va bene. Comunque già picchia, anche a minima potenza già picchia. E amplifica ancora di più, lo so, me l'ha detto Gigi, e beh, perché comprime di meno, capito? Beh, c'era Giancarlo a Torralba, ma è morto, poverino, un bravissimo radioamatore, molto molto bravo, sia sugli HF che anche sui baracchini, molto molto bravo. A me la prima volta tramite Gigi, perché me l'aveva fatto conoscere lui, gli avevo mandato una radio e me l'aveva messo a posto. Però era già malato, aveva quel male bruttissimo, e quindi in giro di pochi anni se l'ha portato via. L'ho visto la persona, Giancarlo. Sì. Vabbè. No, ma ce n'è anche in vicino, non ti preoccupare. Però ti ripeto, non lo fanno per mestiere, quindi non ne fanno. E a me per un amico ce lo fanno, però insomma è una cosa così tra di loro, però dico, a prendere roba a riparare non ne fanno più. Un periodo c'era Massimiliano Archimede, che tu forse non hai mai sentito in radio, bravissimo radioamatore lo stesso, tecnicamente molto preparato, e c'aveva il laboratorio in via Savoia, faceva appunto queste cose. Poi è entrato a lavoro da un'altra parte, non ce la faceva più, e quindi ha chiuso e non ne sta facendo più, capito? L'avevo chiamato anch'io se mi dava una controllatina al mio, ma ha detto che non ce l'aveva tempo, proprio non ne fa più. E anche lui tecnicamente è abbastanza preparato, è il suo lavoro, ma lì non c'è niente da stare a cincischiarmi. Devi ordinare il frequenzimetro, aprire la radio, non so se l'hai mai visto come è fatto, stacchi e metti, ok, se sei bravo a saldare ci sono poche saldature da fare, ce la mette il frequenzimetro nuovo lì, è il difetto del magnum, l'S9 ha quel difetto del frequenzimetro, non c'è niente da fare. Questo, sai quanti anni ha questa radio? Non ti dico quanto, ti ho mandato la foto, visto quanto è preciso il frequenzimetro, perché questo non difetta, il Cobra non difetta di frequenzimetro, mentre il Magnum invece sì. Ma lei deve chiamare la Magnum ce l'ha sicuramente, esiste la Magnum, perché non esiste? Chiami e senti un po' cosa ti dicono. Sicuramente magari ci saranno dei frequenzimetri che possano adattarsi anche a quello, tipo quello del Megaforce, che è uscito dopo e mi pare il frequenzimetro sia molto simile. Dovresti chiedere a Marco. Io ti posso dire che l'S9 che avevo io, che era nuovo dentro la scatola, io l'ho dato che era perfetto, non mi ha mai difettato, mai, capito? Non mi ha mai difettato. E quando l'ha venduto quello che gliel'ho dato io, l'ha venduto col frequenzimetro perfetto, proprio perfetto. Però ce ne sono alcune serie che difettava il frequenzimetro. Ma non è che si brucia perché l'alimentazione è troppo alta, perché io mi ricordo che il Magnum non poteva andare più di 12,8 o 13, se magari tu le dai 13,8 tendono a scaldare i segmenti del frequenzimetro e fa sì che si spengano, si bruciano, capito? Io ad esempio il baracchino, adesso questo che sto usando io, il Cobra, anziché tenerlo a 13,8 come tengo il 440, l'ho portato a 12,8, 13, capito, l'alimentatore, in modo che non forzi molto sull'alimentazione, sui segmenti sia del frequenzimetro che dello smitter eccetera. Ma poi il Magnum c'ha un grandissimo difetto, che scalda un casino, scalda, cazzo, non potevi mettere la mano dietro che ti faceva il buco, capito? Questo è freddo, è leggermente, ma proprio leggermente, conta, ho provato poc'anzi più di un'ora a potenza massima, adesso sono a potenza minima, però non scalda, è un altro tipo di radio, capito? Perché il dissipatore ce l'ha sotto la pancia, quindi è tutto arieggiato. Vabbè, vale, a futtidini, sarà così, dai. Vabbè, ti lascio, vale, che sono già le 8, dai, che mi hanno chiamato e devo anche uscire a prendere roba. Ci sentiamo domani, grazie delle due chiacchiere e a presto. Ok, poi magari domani ci facciamo altre due prove. Saluto chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10 e chiudo baracca e baracchini. Ciao, vale, a domani. Ciao, Pagappa. Ciao, vale, grazie a te delle due chiacchiere, a domani. Ciao, ciao.